Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati. Nelle biblioteche italiane ci sono un sacco di tesori che purtroppo non si possono vedere, a meno che non si realizzino dei libri più belli conservati in queste biblioteche, dei facsimili. Così è stato di recente. La casa editrice Franco Cosimo Panini, che è specializzata in queste riproduzioni, ha riprodotto due libri che sono più unici che rari. Si trovano nella Biblioteca Trivulziana di Milano e sono, pensate, due libri di scuola destinati ad un bambino. Dobbiamo subito dire che questi libri di scuola sono rarissimi, lo sono anche oggi perché, come sapete, i nostri figli usano i libri, li pasticciano, li sottolineano, li ricompilano, eccetera. Questi due libri però si sono salvati per due motivi: primo, perché sono meravigliosamente illustrati in miniatura; secondo, perché appartenevano al figlio del duca di Milano, cioè a Massimiliano Sforza, il duchetto, figlio di Ludovico il Moro Sforza. Questi libri sono commoventi da vedere perché contengono quello che un bambino doveva sapere. Che cosa doveva sapere un bambino, anche se era il figlio del duca? Beh, intanto doveva sapere le preghiere cristiane a memoria, poi doveva sapere qualche poesia, qualche frase moraleggiante. A un certo punto nel libro c'è lui vestito come un militare, però si dice: guardala, tu sarai destinato ad essere un grande soldato perché sei il designato nuovo duca, ma ricordati che devi essere anche colto, dice. E poi a un certo punto c'è un bellissimo dialogo in tedesco accompagnato da una miniatura. La miniatura illustra Massimiliano Sforza con il grande imperatore Massimiliano d'Asburgo, e il testo che è accanto è in tedesco. Quando Massimiliano Sforza si sarebbe trovato davanti a Massimiliano d'Asburgo, avrebbe dovuto dire qualche frase di circostanza, ed ecco che questo libro gli permette di imparare a memoria un discorsetto da fare appunto all'illustre ospite. Questo libro si chiama Il Libro Jesus perché si parte appunto dalle preghiere, e ce n'è un altro che è il Donato, cosiddetto Donato, perché è un libro fatto naturalmente di grammatica. Bisognava imparare a scrivere e bisognava imparare a esprimersi correttamente e con chiarezza, anche se eri il figlio del duca.